offesa e scusa, il tuo ceppo già t'accusa, per dove te vuoi mentir? Niente il ceppo io già non mento.